quando parati dal mare ti fa da specchio, anche se non sei proprio davanti all'acqua, ti fa da specchio, già lo credo che arriva la bomba. Lì è la una delle posizioni migliori in quella zona, lo so, non c'è problema. Va bene, dai, comunque si è fatta quasi l'ora di pranzo, adesso ancora due passaggi e poi chiudo. Vai Luca, hai trovato? Papà, piacco un attimino. Sì, sto cercando, sto guardando su Amazon, che così me lo consegnano direttamente in ufficio e non sto a scimbriarmi. Che costa, ad esempio, questo CX5, commutatore coassiale 3 vie della Albrecht, che sarebbe la stessa marca dell'antenna che ho acquistato il mese scorso, 31 euro. E allora uno per spendere 25 in uno ZG usato, con 5-6 euro in più, penso che sia un business. Ok, allora guarda, la ZG io la scarterei a priori, perché non è questione né di nuovo né di usato, proprio scartala proprio, perché ho sentito tanta gente che si è lamentata per il commutatore coassiale della ZG, per cui va bene come microfono, può andare bene, questo sì, però il commutatore non mi è mai piaciuto e non, e tanta gente si è sempre lamentata, poi non so cosa dirvi. Oggi è domenica anche per quelli della frequenza, tutta la mattina ce l'ho acceso lavorando al computer, ma acceso in ascolto, è entrato Antonio 10 minuti fa e ora tu, diversamente non si è sentito nessuno. Infatti io sono qualche mesetto che non sento più nessuno, tutte le volte che accendo non c'è mai nessuno e dunque allora chiudo, è inutile stare lì ad ascoltare rumori di fondo. In settimana quando esco da lavoro, tra le 6:30, 7:00, 8:00, allora sì, c'è anche tanta gente. Io che sono rientrato da poco e mi sto annotando con chi parlo, c'ho un foglio pieno di nominativi, quindi gente a ruota già c'è. In settimana, in quell'orario lì però, diciamo dalle 6:00 alle 8:00, ecco. Ok, sì, vabbè, lo so, ma quella lì è un'ora un pochino balorda per me, non perché avrei delle cose importantissime da fare in quel momento lì, e per cui non accendo molto facilmente a quell'ora, capisci? Lo so, a me un tempo faceva piacere fare delle chiacchierate anche dopo cena, però ora come ora non c'è più nessuno. Ma è già da anni che non c'è più nessuno, siamo ridotti a un numero molto ridottissimo di persone, che ci possono contare all'incirca 10 persone più o meno, e molto spesso non ci sono nemmeno, quando magari ci incontriamo in 2-3, sì, qualche volta può capitare 5-6, ma sono momenti sporadici, guarda. Abbiamo fatto una selezione naturale e io ero sparito per 25-30 anni che non entravo più. Poi per curiosità e con l'invito di qualche amico mi ha detto dai, riaccendi qualcosa e vediamo un po'. E diciamo che mi sta ritornando la vecchia febbre. Ok, invece a me non mi è mai passata. Dal 1972, fai il conto un po', 54 anni, per cui e ancora sono sempre attivo, anche se alle volte non mi sentono perché non ripetono o non c'è nessuno, oppure rimango in ascolto per vedere se c'è qualcuno che possa fare una chiacchierata, ma raramente riesco a incontrare persone. Nel 72 stavo imparando a parlare, giusto. Io diciamo stiamo parlando degli anni 90, negli anni 90 modulavo tanto, poi nel 2000 sono passato a fare un lavoro particolare, non avevo più acceso e avevo anche regalato tutto. E ora invece ho procurato un po' di apparati piccolini, da colleghi che ce li avevano buttati in garage e sto un po' riallestendo la bancarella. Lo so, io in questa frequenza, perlomeno parlando a Sassari, parlando di questa frequenza, diciamo diciamo che sono forse il secondo più militante. C'è qualcun altro prima di me, anche qualche anno di più, per cui è prima di me. Però poi c'è qualcun altro che fa parte di altre frequenze, che anche loro. Ma diciamo che io posso essere il terzo, quarto, massimo il quinto, tra tutte le frequenze che ci sono, considerando però questi di Sassari, gli amatori di Sassari. Ho capito, sicuramente ci eravamo anche già sentiti allora, e poi insomma io per esigenze di lavoro avevo lasciato tutto, ho lavorato fuori eccetera, e quindi non funzionava più nulla, avevo proprio abbandonato tutto. Vabbè, purtroppo il tempo viene passa per ogni cosa, per cui non c'è da meravigliarsi, è chiaro che un po' tutto finisce nella vita. Sto curiosando anche su eBay, ma eBay è tutta roba dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, io arrivo un mese a arrivare a roba. Troppo. Guarda, ne ha uno caro a Sassari, però è della, ne aveva fino a poco tempo fa, però era della ZG. Ascolta, rivolgiti a Media Globe, guarda, cercalo su Media Globe, che è anche il negozio che è uno dei più a buon prezzo, lì ti può consigliare lui anche, Luca, va bene. Comunque io vi ringrazio per queste quattro chiacchiere, dai, vi saluto tutti e due, sia a te Antonio che a Luca, e dopodiché magari avremo modo di sentirci un altro momento. Io chiudo per questioni di pranzo, dai. Ciao a tutti, ascolto finale e poi chiudo. E allora buon pranzo, buona domenica e a risentirci presto. Saluti Giulio. Ok, ciao di nuovo Luca, buon pranzo anche a te, salutoni, ciao. Ciao Antonio. Ciao Giulio, salutoni. Ce la risentiamo alle prossime. Ciao tu, sempre in gamba, Eia. Adesso già sono in salita, già sono in cosa, credo che sia migliorato di sognare. Auguri di bello cuore, ciao tu, alle prossime, ciao. Ciao, ce la risentiamo. Io faccio un po' di bianco, dai, ce la risentiamo dopo più tardi, ciao. Ciao Antonio, io dopo pranzo mi rimetto in questa postazione, adesso invece lascio e entro nel QTH di fianco a casa di mia mamma a dargli una mano col pranzo. Ci sentiamo. Ok, va bene. Ciao.